Europa 24. E buongiorno da Anna Migliorati, ripartiamo da Bruxelles, decisione imminente sull'Italia e raccomandazioni in vista. Ancora poche ore e l'Italia saprà se dopo 4 anni potrà uscire dalla procedura di deficit eccessivo. Le ultime indicazioni a Bruxelles lasciano presagire da parte della Commissione europea una decisione positiva. L'esecutivo comunitario, tuttavia, pubblicherà anche una serie di raccomandazioni di politica economica. Chiederà al governo di continuare gli sforzi di riduzione del debito pubblico, di rendere più efficiente e meno costosa la pubblica amministrazione, di migliorare la gestione del sistema bancario, di rafforzare la contrattazione di secondo livello nel mercato del lavoro, di spostare la tassazione dal lavoro alla proprietà e infine di favorire una riforma del mercato dei servizi pubblici e privati. Un programma impegnativo, ma che la Commissione ritiene indispensabile per modernizzare l'economia italiana. Beda Romano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bruxelles. E una polemica in queste ore nella Commissione europea. A me preoccupano paesi che complessivamente sono quasi ingovernabili come Bulgaria, Romania e Italia, ha detto il commissario europeo per l'energia Oettinger in un'intervista rilasciata alla Bild Online. Pronta la reazione della Commissione. I commissari sono uomini politici, ha parlato da politico, i suoi sono punti di vista personali. Il commento affidato ad un portavoce. Traffico umano nello spazio europeo, nonostante la battaglia, i dati non sono confortanti. Cecilia Malmström, commissario europeo per gli affari interni, al microfono di Valentina Furlanetto. Well, as the problem is still there, nobody's doing enough, but we are really trying these last years. Se il problema esiste tuttora, significa che nessuno sta evidentemente facendo abbastanza, ma stiamo fissando degli impegni. C'è una direttiva che deve essere recepita in tutti gli Stati membri, che stabilisce cos'è il traffico di esseri umani, quali sono le pene e gli obblighi per proteggere le vittime, eccetera. Abbiamo un piano d'azione che prevede molte misure che i paesi dovrebbero prendere questa settimana. Stiamo creando una piattaforma, dei gruppi di lavoro coordinati e stiamo anche provando a mettere in piedi una rete di angeli e una di imprese per sradicare il problema. Certamente non è ancora sufficiente. La verità è che gli Stati membri dovrebbero fare molto di più per perseguire i responsabili di questo orribile crimine. Dopo la decisione della Francia di sospendere dal commercio la pillola Diane 35, anche l'Italia sta procedendo alla revisione dei dati sul farmaco incriminato. L'agenzia del farmaco francese ha avviato il processo di sospensione della vendita, che sarà effettivo entro 3 mesi. Il motivo è che la pillola, un farmaco contro l'acne, talvolta usato impropriamente anche come anticoncezionale, è sospettata di avere effetti collaterali superiori ai benefici. Sotto accusa per 4 morti sospette avvenute negli ultimi 25 anni per trombosi venosa. Euronet Plus ha sentito Ilaria Passarani dell'Organizzazione Europea dei Consumatori, che spiega la valutazione compiuta dall'Agenzia Europea del Farmaco. Qualche problema con questa intervista, ve la faremo risentire. Ci aspetta allora il nostro appuntamento consueto con Federico Taddia. Sono Federico Taddia e oggi vi parlo del passaporto europeo per cani, gatti e furetti. In futuro viaggiare nell'Unione con i propri animali richiederà meno burocrazia, dopo che il Parlamento europeo ha approvato la normativa che stabilisce criteri più chiari sulla vaccinazione antirabica e sulle procedure per il rilascio del libretto. I lasciapassare dovranno essere redatti da un veterinario abilitato, dovranno specificare il codice del transponder, i dettagli delle vaccinazioni e altre informazioni sulla salute dell'animale. Si potranno passare i confini anche con i cuccioli, ma non più di 5 in tutto, questo per scoraggiare lo sfruttamento ai fini commerciali della nuova normativa. Per saperne di più, europa.eu/travel/pets. E l'Europa vi aspetta come sempre dopo il giornale radio delle 15. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.